Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17:07. Buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. È venerdì 31 agosto, il numero per intervenire in diretta via SMS come sempre è il 349-238-6666. Nella giornata di oggi, nella puntata di oggi, naturalmente il primo tema che toccheremo sono i dati sulla disoccupazione, dati ancora una volta brutti, c'è chi direbbe drammatici, diciamo brutti, sono dei dati molto pesanti, disoccupazione che resta ampiamente sopra il 10%, è ai massimi dal 2004 e come sempre c'è il peso della disoccupazione giovanile, in particolare delle donne del sud, se poi proprio vogliamo essere più precisi, le donne giovani del sud. Circa la metà delle donne giovani del sud è disoccupato. Toccheremo questo tema, lo approfondiremo anche alla luce dell'approvazione della riforma del lavoro, che però, come sappiamo, è sì legge, ma come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, non è ancora di fatto attuata, nel senso che non è stato approvato nemmeno un decreto attuativo della riforma del lavoro, come ha ben raccontato il Sole 24 Ore nei giorni scorsi. Parleremo di mercati, come è naturale, come facciamo tutti i giorni, mercati che oggi sono positivi, un guadagno dell'1,88% sul FTSE MIB, dell'1,76% sul FTSE All-Share, con Parigi che guadagna l'1,08%, Francoforte l'1,20%. E va bene anche New York, più 1,02% sul Dow Jones, più 0,83% sul Nasdaq e più 0,82% sullo Standard & Poor's 500. Tutto ciò nonostante le parole preoccupate del presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, oggi da Jackson Hole per l'annuale simposio della Fed, della Banca Centrale Americana, parole sulle quali torneremo più avanti, sarà un altro dei nostri argomenti di approfondimento. E poi l'agenda di governo. Oggi il Sole 24 Ore è uscito con delle indiscrezioni interessanti sul tema, su quello che dovrebbe essere il piano energia dell'esecutivo, obiettivi tra gli altri, come sempre, quello di ridurre la dipendenza dall'estero e poi anche conseguentemente, se vogliamo, di ridurre la bolletta energetica che, come sappiamo, pesa sui conti di tutti noi e pesa ancora di più sui conti di imprese particolarmente in difficoltà. Questi temi che affronteremo nella giornata di oggi. Per chiudere il quadro sui mercati, in questo momento l'euro è vicino a quota 1,26 contro dollaro, 1,2596 per essere esatti, e i titoli di Stato, i decennali italiani, non si scostano molto da quello che è stato l'andamento dell'asta di ieri al 5,83%. Ieri, lo ricordiamo, sono stati collocati al 5,82% e lo spread tra titoli di Stato italiani e tedeschi è a 450 punti in rafforzamento. Iniziamo come sempre dalle notizie in breve. Oro in rialzo sui mercati asiatici, un più 0,2%, è in rialzo anche il petrolio nella giornata di oggi, il WTI, quello quotato a New York, in guadagno dell'1,29%, a 95,8 dollari al barile, in rialzo anche quello quotato a Londra, il Brent dello 0,92%, a 113,6 dollari al barile. Si diceva di Bernanke, il presidente della Federal Reserve, che dice che la situazione economica è lungi dall'essere soddisfacente e che la Fed allenterà la propria politica monetaria se necessario per la crescita. Non sono escluse politiche non convenzionali, dice Bernanke. che esprime anche preoccupazione per la situazione del mercato del lavoro. Venendo al lato europeo della crisi, il nuovo fondo di salvataggio, l'ISM, diverrà operativo con tutta probabilità a ottobre di quest'anno, è quello che dice Klaus Regling, che è tedesco e guida l'attuale fondo di salvataggio, l'IFSF. Ha parlato ad Alpbach in Austria. Per il 12 settembre ha atteso il verdetto della Corte Costituzionale tedesca, lo ricordiamo ancora una volta, sulla legittimità dell'ISM. O meglio, sulla legittimità, insomma, sul fatto che il Parlamento tedesco potesse approvare l'ISM. Moody's torna a parlare, questa volta di Spagna, dice che potrebbe ancora tagliare il rating. E che la revisione del merito di credito del paese continuerà fino a settembre. La decisione sul rating dipenderà anche dal piano di ricapitalizzazione bancario di Madrid, dal sostegno disponibile attraverso appunto il fondo ISM e dalle novità in arrivo sul meccanismo di gestione delle crisi europee. Nel frattempo proprio la Spagna ha approvato il pacchetto di riforme del sistema bancario, avete sentito che ne abbiamo parlato lungamente ieri. Il pacchetto include una cosiddetta bad bank, una banca cattiva nella quale far confluire le attività problematiche delle banche spagnole, e poi uno schema di gestione dei fallimenti bancari. Tra l'altro la Spagna creerà un fondo di gestione degli immobili per cercare di anche rivitalizzare il mercato immobiliare, che è quello sul quale poi, come sapete, si è basato sia il boom che il crollo della Spagna. Torna a crescere l'inflazione nell'eurozona d'agosto, che sale al 2,6% dal 2,4% di luglio, è la stima flash di Eurostat, ma quel che ci tocca più direttamente è che l'inflazione italiana è superiore a quella della media europea, ampiamente superiore a dire il vero. Il tasso di inflazione registra tra l'altro una risalita, passando al 3,2% dal 3,1% di luglio, e quindi il dato di agosto. Aggiunge l'Istat che su base mensile i prezzi sono cresciuti dello 0,4%. A pesare i rialzi di carburanti e trasporti, manco a dirlo. Rincara anche il cosiddetto carrello della spesa, sono i prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza, dal cibo ai carburanti. È del 4,3% su base annua, un rialzo superiore al tasso di inflazione, appunto, che è al 3,2%. La vicenda del Sulcis, qualcosa avete già sentito dal Carbon Sulcis, avete già sentito poco fa nel giornale radio, un giovane operaio dello stabilimento, scusate, più che la vicenda del Sulcis, le due vicende si stanno incrociando in queste ore al Ministero dello Sviluppo Economico. Iniziamo dall'Alcoa, un giovane operaio dello stabilimento di Porto Vesme con un contratto interinale che non gli è stato rinnovato è salito per protesta sul tetto di un silo alto 40 metri. Nei giorni scorsi aveva protestato davanti alla fabbrica annunciando anche lo sciopero della fame. Si apprende intanto che la multinazionale svizzera Glencore è ancora interessata a subentrare ad Alcoa nell'impianto sardo, ma non ha al momento presentato alcun impegno scritto. Il Ministero dello Sviluppo fa sapere che Glencore fornirà le proprie valutazioni entro una settimana. Vuole chiarimenti in merito ad energia, infrastrutture e ambiente. Il presidente della regione Cappellacci dice che spera che sia ancora possibile un accordo appunto con Glencore. Oggi a Roma i vertici proprio appunto su Carbosulcis, Euroalluminia e Alcoa, e continua il presidio al Ministero dei Lavoratori della multinazionale dell'alluminio. Anna Marino ha raggiunto in corteo Bruno Usai, lavoratore dell'Alcoa e rappresentante sindacale. Vista la straordinarietà del caso, venga trattato dal ministro Passera in persona, perché no, anche dal primo ministro Monti, perché è un problema di carattere nazionale. Noi stiamo parlando dell'unica fabbrica che produce alluminio in Italia. Che cosa vi aspettate e che cosa volete dal governo? Vogliamo un impegno forte del governo, perché secondo noi non ha fatto tutto. Noi Abbiamo già la convocazione dell'azienda che domani ci dichiara la fermata, la messa in sicurezza degli impianti. Vuol dire che il governo non ha fatto tutto, non ha salvato la nostra fabbrica. Quanti siete in corteo e che cosa state facendo? Siamo un centinaio in corteo e siamo qui a protestare in piazza Montecitorio perché vogliamo che appunto il governo sia più incisivo sulla nostra partenza. Non abbiamo tempo da perdere perché, come ho già detto, l'Alcoa sta andando avanti sul suo progetto che è quello di fermare e di dismettere l'impianto di Portovesme. Quali sono le conseguenze? Le conseguenze vuol dire la povertà. Visto che stiamo parlando di aziende in difficoltà, di fabbriche in difficoltà, e questo è il primo tema che affrontiamo, il tema del lavoro. Un quadro complessivo per darvi un'idea, per dare un quadro complessivo possiamo dire che ci sono più over 50 al lavoro e meno occupazione per i giovani e i 35-49 anni. Iniziamo dal dato europeo, che è più alto di quello italiano in questo caso. Il tasso di disoccupazione è all'11,3%. In Italia il tasso a luglio resta stabile al 10,7%, lo stesso livello di giugno. È il più alto da gennaio 2004. Tasso di disoccupazione è pari al 57,1%, e neanche questo segna variazioni. Il tasso di disoccupazione giovanile a luglio è al 35,3%, in aumento di 1,3 punti percentuali su giugno e di 7,4 su base annua. Il ritmo di crescita annuo della disoccupazione giovanile è triplo rispetto a quello complessivo. E come si diceva, le ragazze del mezzogiorno, forse le più colpite dalla crisi, da questa crisi, il 48% delle giovani tra i 15 e i 24 anni nel mezzogiorno è senza lavoro. La metà. E poi altro dato, 2,4 milioni di lavoratori a termine, è il record con contratto a termine, il record dal 1993. Saluto il professor Carlo Della Ringa, economista dell'Università Cattolica di Milano. Buonasera, professore. Buonasera a tutti. Allora, abbiamo visto ancora una volta dai dati una particolare sofferenza per i giovani e l'aumento, ci dice l'Istat, della permanenza al lavoro degli over 50. Non è che su tutto questo ha un peso la riforma delle pensioni, professore, l'innalzamento dell'età pensionabile? Sì, certamente l'effetto è soprattutto delle riforme precedenti, l'ultima, perché l'ultima probabilmente non ha ancora prodotto effetti rilevanti, considerato anche il fenomeno degli esodati. Ricordiamo che le riforme delle pensioni, più riforme, sono in atto da parecchi anni. Anche il precedente governo, agganciando, diciamo così, l'età pensionabile alle aspettative di vita, col sistema delle finestre, col sistema delle quote famose, aveva certamente alzato l'età pensionabile. Quindi un grosso, diciamo così, effetto di queste riforme è stato quello di tenere lavoratori fra i 55 e i 64 anni nel mondo del lavoro. Molti di questi occupati, qualcuno di questi magari anche disoccupato. Allora, e questo naturalmente è... Sì, prego, professore, poi vado e con quindi, la domanda. E quindi... dal momento che l'occupazione è rimasta stabile, ecco, questo va detto, che questo fortissimo aumento della disoccupazione in un anno di circa 700.000 unità, quindi un esercito, è avvenuto a parità di livelli occupazionali, perché in fondo l'occupazione è rimasta stabile, vi è da dire, come giustamente ha detto, molto temporanea, molto a part time, 400.000 in più a part time, questo va detto, e molte in cassa integrazione che sono anche questi occupati. quindi l'occupazione stabile. E come si spiega il fatto che con un'occupazione stabile la disoccupazione è aumentata di 700.000 unità? Allora, questo è il fatto molto interessante, è dovuto a una serie di fenomeni. Uno, l'abbiamo detto, più lavoratori anziani rimangono al lavoro. L'anno scorso c'erano più pensionati, oggi ci sono meno pensionati perché rimangono a lavorare. Quindi i pensionati l'anno scorso si dichiaravano inattivi. Oggi le persone anziane in più lavorano e i giovani, non trovando lavoro, si dichiarano disoccupati perché lo cercano e non lo trovano. Ecco, questo è un primo effetto. Secondo effetto che vorrei aggiungere, è molto importante, è aumentata molto l'occupazione femminile ed è diminuita quella maschile. Quindi sono entrate nel mercato del lavoro donne che magari prima erano inattive, perché i settori in espansione, quei pochi settori in espansione, sono nei servizi e le donne hanno trovato lavoro. Invece gli uomini nelle costruzioni e nell'industria, meno 200.000, questi hanno perso il lavoro e lo stanno cercando. Ecco quindi che è aumentata la disoccupazione a parità di occupazione. Cioè diversi fenomeni che hanno aggravato la situazione generale, il disagio, sia pure a parità di occupazione. Primo perché è un'occupazione che in larga misura è precaria, e secondo perché sono entrati nel mercato del lavoro più gente che lo cerca e però non lo trova. Chiarissima l'analisi, professore. Una domanda, non è che questo incremento di contratti a termine, di part-time, di lavoro temporaneo, di lavoro precario dipende anche, naturalmente dipende da una situazione economica che è quello che è, la situazione delle imprese la conosciamo benissimo e la raccontiamo quotidianamente, non è che dipende anche dal fatto che le regole non sono ancora certe, nel senso che c'è una riforma del lavoro che è stata appena approvata, però i decreti attuativi sostanzialmente non ci sono, e quindi se un'impresa deve assumere naturalmente attende di avere le nuove regole? Sì, certamente anche questo, una confusione, perché in effetti non si sa ancora bene, no, gli effetti di questa riforma, mancano anche i regolamenti attuativi, c'è molto timore anche di contenzioso, no? E quindi in questa incertezza è chiaro che prima di stabilire dei rapporti duraturi le imprese ci pensano bene, ma io penso che soprattutto è l'effetto di una generale, diciamo così, caduta del livello di attività economica, che fa sì che, per esempio, molti che lavoravano a tempo pieno adesso lavorano part time, pur di tenere il lavoro lo tengono a part time, e pur di avere un lavoro si accontentano magari di un lavoro di 5-6 mesi, 7 mesi. Guardi che da un certo punto di vista è meglio questo che non un abbandono totale del lavoro, perché quello che dicono gli organismi internazionali è: le politiche del lavoro devono cercare, nei limiti del possibile, di tenere attaccate queste persone al mercato del lavoro, perché se rimangono distaccate per troppo tempo, diventano disoccupati di lunga durata, si perde potenziale di capitale umano, è difficile recuperarli, è come le imprese che chiudono e che poi non aprono più. Quindi è meglio tenere in circolazione. Certo, è il meno peggio, perché naturalmente di fronte a più donne che cercano, alcune trovano ma alcune non trovano. E perché cercano? Perché i bilanci familiari sono quelli che sono, i mariti magari hanno perso il lavoro nelle costruzioni, nell'industria, le donne cercano qualsiasi lavoro nei servizi anche a part time, quindi è un effetto di lavoratore aggiuntivo, quindi un disagio generale in cui tutto sommato il fatto di dividere questa grande massa, questa massa di domande di lavoro in tanti pezzetti per ora va bene in attesa della ripresa, però sta a significare un disagio che si rispecchia in un aumento della disoccupazione, perché la disoccupazione è veramente il segnale di un disagio profondo, e soprattutto dei giovani. Ormai si diceva uno su tre, no, più. Sì. Più di uno su tre. Sì, sono il 35%. Il 35%, abbiamo oltrepassato quella soglia. Ci chiede un ascoltatore al 349-238-6666, a proposito del discorso che facevamo all'inizio, professore, ossia il fatto che l'innalzamento dell'età pensionabile possa portare naturalmente a un rimanere sul posto di lavoro e quindi a non lasciare spazio, per così dire, ai giovani. Ci scrive un ascoltatore: se lei dice, come ci ha detto, che è un effetto delle precedenti riforme, allora con questa l'effetto dovrebbe moltiplicarsi. È algebra. È 2 più 2 uguale 4. Sì. Perché? Dunque, gli economisti io compreso, vi ha sempre detto il fatto di aumentare l'età pensionabile, di tenere più gente a lavorare va bene nel lungo periodo, perché più gente lavora più si produce ricchezza. Quindi nel lungo periodo è una benedizione il fatto che si lavora di più più a lungo, l'ha detto anche il governatore della Banca d'Italia non più tardi di 3 mesi fa. Sì, però ha una condizione, cioè che l'economia tiri. Perché se ci sono problemi di carattere macroeconomico generale, per cui i governi sono costretti a fare delle politiche restrittive e magari il sistema che ha perso competitività, e allora il fatto di stimolare l'offerta di lavoro, come le riforme delle pensioni stimolano l'offerta di lavoro, perché tengono la gente a lavorare, quindi devono lavorare, ecco, il fatto di stimolare l'offerta di lavoro può essere anche controproducente. E in effetti si osservano i fenomeni. Quindi la riforma delle pensioni deve accompagnarsi a un'economia dinamica. Se nei prossimi anni, 5, 6, 7 anni, non usciamo da questa situazione e cominciamo a crescere all'1, 1,5, 2%, l'effetto è inevitabilmente questo. Siamo intrappolati in una situazione in cui ci saranno più anziani che lavorano anche per effetto demografico, perché stanno aumentando le coorti di anziani per effetto dell'invecchiamento. E i giovani, vediamo, il tasso di disoccupazione cos'era? Era del 27%, è al 35%, sì. E un altro anno, se dovesse aumentare di altri 7 punti percentuali, dove andiamo? Raggiungiamo la Spagna o siamo lì? Quindi la situazione può diventare veramente piuttosto grave. Ecco. Sì. Sì, il punto è sempre quello, è quello che diciamo sempre, insomma, ci vuole, in questo momento siamo in una fase nella quale l'economia è asfittica, non lo è da oggi a dire il vero in questo paese, e quindi naturalmente se ne risente, mentre invece in un'economia dinamica, come ci diceva lei, normalmente un innalzamento dell'età pensionabile non ha questi effetti. Sempre un ascoltatore ci scrive una cosa, anche su questo devo dire la verità, professore, ho una mia curiosità. Questo calcolo della disoccupazione giovanile, che viene fatto tra i 15 e i 24 anni, io suppongo per stare entro determinati standard europei, no? Per omologare le statistiche a quelle di Eurostat. In realtà è il momento dal quale si può lavorare in Italia sono i 16 anni, quindi non è che c'è qualche falsatura su queste statistiche? Sì, c'è, come quella finale, i 64, no? Perché poi si lavora anche dopo, no? E quindi dove mettiamo gli occupati dopo se chiudiamo le età ai 64? È chiaro che sono tutti problemi statistici da considerare attentamente, però non sono talmente macroscopici da cambiare la sostanza del discorso. Però è vero, bisognerebbe andarci dentro in modo più sottile, più sofisticato e tenere conto anche di questi aspetti, perché poi questo cambia da paese a paese, in certi paesi entro una certa età, in altri paesi in altra età, però per fare dei confronti tra paesi bisogna tagliare la testa del toro e pigliare delle fasce di età omogenee per tutti i paesi. Però questo non rende ragione delle diversità istituzionali che esistono fra paese e paese, cioè l'età in cui si esce, ci può uscire da scuola, si può incominciare a lavorare, l'età in cui si va a pensione, cose di questo genere. Ho un'ultima domanda per lei, professore. Allora, dice il presidente dell'Istat, Enrico Giovannini, dice: i dati emersi nelle ultime settimane mostrano come l'economia italiana sembra aver interrotto la fase di caduta. Dice: mi aspettavo un aumento della disoccupazione più forte. È così anche per lei? Se l'aspettava più forte questo aumento della disoccupazione? Io mi aspetto nei prossimi mesi una caduta dell'occupazione, no? Un aumento più forte della disoccupazione, mi dispiace per il Presidente, carissimo amico, ma è aumentata di 700.000 unità in un anno, peggio di così non poteva andare. Invece l'occupazione ha tenuto, e questo mi sorprende, perché si dice siamo in crisi e l'occupazione tiene. Io mi aspetto che con la ripresa forte della cassa integrazione si ripete il ciclo di 2 anni fa, cioè prima aumenta la cassa integrazione e dopo 6-7 mesi purtroppo si va in mobilità e si perde l'occupazione. Quindi la previsione, diciamo, pessimistica è che ci sia anche una riduzione dell'occupazione nei prossimi mesi, a meno che non ci siano quegli ammortizzatori che conosciamo, in parte la cassa integrazione e in parte sono queste cose qui, più part-time, più contratti temporanei, che non è certamente la soluzione dei mali, ma che però può tenere alto statisticamente perlomeno il livello degli occupati. Le 17:34 minuti ci comunica il Ministero per lo Sviluppo Economico che la miniera del Carbon Sulcis subirà la paventata interruzione dell'attività il 31 dicembre. E nell'incontro di oggi si è anche deciso di rivedere il progetto Carbone Pulito per aggiornarlo e renderlo compatibile con le migliori tecniche ed economicamente sostenibile. Speriamo che vada davvero così. Ci segnalate sulla questione statistica di quando calcolare la disoccupazione giovanile che il nuovo contratto di apprendistato prevede che si inizi a 15 anni a lavorare. È vero, però è vero anche che l'obbligo scolastico in Italia è fino ai 16 anni ed è per questo che facciamo notare una certa distanza tra questo obbligo scolastico fino ai 16 anni e il fatto che la disoccupazione giovanile si calcoli dai 15. Ma come sentivate da quel che ci diceva il professor Della Ringa e come tutti immaginavamo guardandoci intorno, in realtà gli scostamenti statistici che possono derivare da questo elemento non sono un granché. La disoccupazione giovanile c'è, è alta, è altissima. La borsa. Guido Maurino, Radio Core, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Chiudiamo sui massimi oggi. FTSE MIB più 2,16%, FTSE All-Share più 2,18%. Sì, oggi chiudiamo bene, diciamo, la settimana, anche perché c'erano molta attesa per le parole del presidente della Fed Ben Bernanke. Ben Bernanke ha detto che la Riserva Federale Americana è disponibile a intervenire se e qualora fosse necessario, anche con misure aggiuntive sui mercati. Sono parole in qualche modo attese, che non hanno sorpreso più di tanto gli analisti, ma che comunque sono bastate a confermare e anzi a incrementare ulteriormente i guadagni che le borse avevano incamerato nel corso della mattinata, unite anche al fatto che la Spagna ha varato la sua riforma per le banche, con la creazione di una bad bank in cui far confluire gli asset, diciamo così, tossici, e tutto questo ha contribuito a una buona giornata delle borse. Sia Francoforte che Parigi hanno guadagnato oltre l'1%, migliore di tutte è stata proprio Madrid con più 2,90%, ma anche Milano, come ricordavi tu, con questo più 2,16% si è ben comportata. Bene anche l'America in questo momento. Il Dow Jones guadagna quasi un punto percentuale, il Nasdaq lo 0,75%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,8%. Allora, complessivamente bene i bancari, mi sembra, Guido. Monte dei Paschi più 6,46%, Popolare Emilia Romagna più 5,3%, Intesa San Paolo più 4,08%, la Popolare di Milano più 3,2%, Unicredit più 3,08%, UbiBanca più 3,09%, tutto ok da questo lato. Sì, i bancari si sono mossi bene, anche perché lo spread, prima di risalire un pochettino sul finale a 452 punti per buona parte della giornata, ha mostrato una discesa verso quota 440. Per quello che riguarda in particolare Monte dei Paschi, si tratta anche, come dire, di un po' di recupero dopo che il titolo aveva perso oltre il 13% nelle due sedute successive alla presentazione dei risultati semestrali. Oggi sono arrivate anche le parole del direttore generale della banca Viola, che in un colloquio col Sole 24 Ore ha confermato i tempi e i modi del piano di razionalizzazione e di taglio dei costi, quindi notizie che hanno contribuito a questo più 6,46% di Monte dei Paschi. Chiarissimo. Allora, di singole storie, allora, titoli negativi oggi solamente tre in realtà sul listino principale, sul FTSE MIB. Sono Fiat che cede lo 0,05%, Terna lo 0,65% e Buzzi Unice meno 1,20%. Sì, per quello che riguarda sia Terna che Buzzi Unicem, oggi ci c'erano alcuni report delle banche d'affari che hanno penalizzato un po' i titoli. In entrambi dei casi, in buona sostanza, si dice che i titoli hanno già corso abbastanza e che non ci sono ulteriori margini per ulteriori crescite del valore azionario dei titoli, almeno nel breve periodo. Ed è un po' questa la ragione per cui sono rimasti penalizzati in borsa. Questo per quanto riguarda Buzzi. Ancora Camfin più 23%. Sì, CAN fino ad oggi è andata molto bene, oltretutto con scambi superiori a 10 volte la media del titolo. A questo punto si accende veramente la battaglia per il controllo della holding, che a sua volta detiene il pacchetto forte di controllo di Pirelli. Ricordiamo che c'è una battaglia in corso fra i due soci principali di Canfin, che sono la famiglia genovese dei Malacazza e Tronchetti Provera. L'origine, diciamo, del contendere è stato il rifinanziamento dei debitori in scadenza per oltre 130 milioni con Tronchetti Provera, che ha deciso di andare avanti con un bond convertibile in azioni Pirelli, mentre la famiglia Malacalza, che è molto liquida, avrebbe preferito un aumento di capitale. A questo punto alcuni giornali oggi iniziavano a ipotizzare che i Malacalza potessero decidere anche eventualmente di fare un'OPA sul titolo Canfin. Si tratta di notizie che per il momento non hanno trovato riscontro, però intanto la borsa ci scommette. Per quanto riguarda invece Saipem, che è andata bene oggi? Sì, per quello che riguarda Saipem, più 2,41% oggi, è stato il titolo migliore degli energetici, considerando che Eni ha guadagnato l'1,61%, ci sono buone prospettive di nuove commesse in arrivo dalla Russia nei prossimi 6 mesi, si tratta di notizie che erano citate in alcuni report di analisti oggi e che lasciano ben sperare, visto che c'erano alcune preoccupazioni sul portafoglio ordini della società. Infine Seat. Infine Seat, che oggi ha ceduto il 65,5%, un calo monstro, ma è dovuto all'effetto della ristrutturazione della società con la fusione degli obbligazionisti che erano riuniti in questa scatola Lighthouse in Seat Pagine Gialla. In sostanza è successo che le azioni di Seat proprio oggi, in virtù di questa fusione, siano passate da 1,9 miliardi a 16,1 miliardi, c'è un effetto dilutivo quindi sul capitale che spiega, un effetto tecnico che spiega questo calo. Grazie a Guido Maurino di Radio Core Il Sole 24 Ore anche per questi aggiornamenti. Un quadro finale di giornata, qualche titolo che non vi abbiamo dato: Generali più 3,47%, Mediolanum più 3,18%, UbiBanca più 3,09, Unicredit, ve l'abbiamo detto, più 3,08, Bene Enel più 2,9, A2A più 2,5%, ST Microelectronics più 2,4, Azimut più 2,3, Enel Green Power più 2,1%, Mediaset e Banco Popolare più 2%, più 1,9 Prismian, Diasorin altrettanto, Telecom Italia più 1,8%, TOTS ed Eni più 1,6, più 1,4 Pirelli Autogrill, così come Tenaris, Exor altrettanto, e Parmalat più 1,17%, Luxottica anche bene, quasi un punto percentuale di guadagno, così come Salvatore Ferragamo, guadagna lo 0,9 Atlantia, lo 0,89 Ansaldo, Mediobanca più 0,81, lo 0,7 Fiat Industrial, Finmeccanica e Campari, mezzo punto percentuale l'Automatica, Snam più 0,3%, in pregilo più 0,21, e gli altri titoli in negativo ve li abbiamo dati: Buzzi Unice meno 1,20, Terna meno 0,65, Fiat meno 0,05%, Euro che quota 1,2591 contro dollaro, spread a 450 punti e rendimenti ai titoli italiani al 5,83%, quelli a 10 anni. Adesso parliamo di Federal Reserve. Il presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, è intervenuto oggi all'annuale simposio della Fed a Jackson Hole. Saluto Marco Valsani del Sole 24 Ore, che l'ha inviato, e speriamo che il telefono regga, perché da quel che abbiamo capito a Jackson Hole prendere, avere pieno campo è piuttosto complesso. Marco, buonasera. Buongiorno, buonasera a voi. Allora, che cosa ci dice Bernanke? Ma Bernanke ha effettuato una difesa convinta e determinata delle politiche monetarie della Federal Reserve contro la crisi prima e contro l'attuale debolezza della ripresa. Non ha rivelato quali saranno i prossimi interventi della Fed, non ha dato date esatte, ma ha chiaramente preparato il terreno per ulteriori manovre di stimolo da parte della Banca Centrale Americana, dicendo che queste manovre non convenzionali, quali l'acquisto di titoli obbligazionari, quali l'impegno a mantenere a livelli minimi i tassi, ma vicini allo zero, i tassi di interesse, sono stati efficaci negli anni passati, hanno mitigato la recessione e continuano, questo soprattutto ha sottolineato, continuano oggi a essere strumenti efficaci per combattere quello che ha definito una grave minaccia per il futuro dell'economia americana, cioè la disoccupazione. Bernanke ha sottolineato molto la preoccupazione per lo stato del mercato del lavoro americano, sostanzialmente che le ragioni principali per la debolezza dell'economia non vanno cercate in problemi strutturali della crescita dell'economia, ma in ragioni congiunturali sulle quindi può e deve intervenire. Allora, con Marco Valsani, inviato del Sole 24 Ore a Jackson Hole, dove si sta svolgendo il simposio della Federal Reserve, le preoccupazioni per l'Europa della Fed, Marco. Un passaggio del discorso è stato dedicato proprio alle preoccupazioni per l'Europa che rappresentano anche per gli Stati Uniti un minaccia di contagio. Bernanke l'ha indicato veramente tra i fattori che oggi continuano a frenare, a indebolire la crescita globale e americana. Quindi la preoccupazione c'è, però Bernanke ha avuto parole di incoraggiamento per i policymaker europei, dicendo testualmente che le iniziative, le proposte recenti venute dall'Europa appaiono costruttive, ha detto, e quindi si è augurato che questo tipo di iniziative continui parte delle autorità europee. Grazie. Questo è il succo. Grazie Marco Valsani, ti salutiamo, anche perché tra l'altro, appunto, come già preannunciato, la linea è tutt'altro che eccellente. Vi ricordo ancora il numero per intervenire in diretta: 349-238-6666, perché adesso torniamo sull'Italia e parliamo di energia. Siamo stati rincorsi in queste settimane dalle notizie sui continui rialzi della benzina. Non solamente quella ha un impatto sul nostro conto energetico, che è molto alto, e dunque a quanto pare l'esecutivo starebbe lavorando anche su questo. Ne ha scritto oggi il Sole 24 Ore con un'esclusiva firmata dal collega del Sole 24 Ore, Carmine Fottina. Carmine, buonasera. Buonasera. Allora, discretamente ambizioso come piano, mi sembra. Insomma, si vuole ridurre la dipendenza energetica dall'estero dall'82 al 65%? Esatto, penso che è utilizzato sicuramente un aggettivo adeguato, un piano ambizioso. Gli obiettivi sono molto alti, l'asticella è molto alta. L'idea del governo è riuscire in qualche modo a ridurre la dipendenza energetica dall'estero quasi di 15 miliardi di euro all'anno. Ovviamente il tutto andrà misurato con l'attuazione di quelli che al momento sono i principi della nuova strategia energetica nazionale. Teniamo conto che si tratta di un documento molto ampio, è la seconda strategia nazionale che nel giro di diversi anni l'Italia mette a punto e che va a rinnovare tutti i tasselli del sistema energetico, quindi il gas, la benzina, l'efficienza energetica, gli idrocarburi. Quindi c'è un mix di interventi che andrà messo in atto per far sì che poi questi obiettivi veramente vadano in porto. Ma si parla anche, perché questo sarà un tema immagino di grandissima discussione, probabilmente anche di grandissime proteste nei prossimi mesi, si parla anche della possibilità di trivellazioni per il petrolio in Italia? Esatto, hai toccato uno dei punti più delicati, perché tra l'altro anche molto attuali. Se pensiamo che proprio in questi giorni c'è una mobilitazione dei sindaci delle isole Tremiti contro alcuni progetti che sono stati autorizzati, progetti di sondaggio per ora, però autorizzati dal Ministero dell'Ambiente, e già c'è una mobilitazione in questo senso, perché l'Italia vuole spingere molto il pedale su appunto le trivellazioni offshore, sfruttando quello che è un patrimonio che non molti sanno abbiamo, ma nascosto. Abbiamo le riserve di petrolio e gas tra le più alte in assoluto in Europa, siamo al di sotto soltanto dei paesi nordici, la regolamentazione non ci ha mai permesso di sfruttare appieno questo patrimonio. L'Italia ha già provato, l'attuale governo ha già provato due volte, prima col decreto crescitare e poi col recente decreto sviluppo, a modificare i limiti relativi alle trivellazioni offshore, rendendoli in qualche modo più soft, ma ovviamente proprio per le proteste che si sono sollevate e che tu sottolineavi, il tentativo non è andato a buon fine. Non è da escludere che il governo ci riprovi appunto anche in un cosa fa sperare il governo che vada a buon fine la cosa adesso, diciamo così? Ecco, è una paziente opera probabilmente che si sta cercando di fare. Tra l'altro considera che nel documento di cui appunto noi scriviamo oggi si parla a un certo punto anche di un insieme di iniziative da portare sul territorio a livello di amministrazioni locali per far crescere il consenso da parte della popolazione a questo tipo di iniziative. Nel dettaglio non viene spiegato ancora quali iniziative saranno prese, però è chiaro che c'è un'operazione diciamo simile a quella che probabilmente sarà fatta per tanti altri casi di infrastrutture osteggiate dalle popolazioni locali o insomma la cosiddetta sindrome NIMBY, no? Che richiede un paziente lavoro anche con le amministrazioni locali per cercare di creare il consenso a queste operazioni. Non è sicuramente una strada in discesa. No, naturalmente non è una strada in discesa. E quali sono i luoghi che si stanno immaginando, Carmine? Guarda, nel documento, in questa bozza di documento, ricordiamo che è un documento che sarà posto a consultazione pubblica, quindi ci saranno tutta una serie di pareri degli operatori coinvolti, e poi il governo, tenuto conto di una certa misura di questi pareri, porterà il provvedimento all'approvazione definitiva. Quindi è una consultazione pubblica che si è aperta, nella quale si citano alcune zone in particolare: la Valpadana, l'Alto Adriatico, l'Abruzzo, la Basilicata e l'offshore Ibleo in Sicilia, che sono già delle zone diciamo più o meno coinvolte da qualche progetto, ma ovviamente l'intenzione è di spingere molto su questo fronte, portando la produzione di idrocarburi a rappresentare il 16% del nostro fabbisogno nazionale, mentre oggi siamo all'8%. Insomma qualcosa di significativo. Secondo il governo, fra l'altro, e magari è un modo per invogliare tra virgolette anche le amministrazioni a un atteggiamento più morbido, si tratta di grandi progetti che possono attivare 25.000 posti di lavoro, sono stime ovviamente del governo. Ovviamente post referendum immagino si sia pensato bene di non toccare l'argomento nucleare. No, assolutamente cioè, no. Nemmeno nucleare, toccarlo, diciamo così, ecco. No, del nucleare non c'è traccia, e nella tabella che fa riferimento ai nostri livelli di produzione e di consumo interno da qui al 2020, la voce nucleare resta a zero, quindi non c'è alcuna variazione in programma, è un dossier che a questo punto insomma sembra restare nel cassetto. Infine, Carmine, brevissimamente, lato rinnovabili, anche se questo il concetto di rinnovabili tira dentro tantissime cose, tra cui anche l'idroelettrico, per cui diciamo le rinnovabili come vengono intese normalmente, ossia solare, geotermico e cose di questo genere. In questo caso il governo conferma la linea di andare avanti con graduale ma significativa riduzione degli incentivi alle rinnovabili. La griglia di 3,5 miliardi di euro all'anno fino al 2020, con l'obiettivo di un graduale annullamento. Magari giusto in coda segnalerei anche che c'è un capitolo interessante sulla benzina, dove si ribadisce la volontà di ristrutturare ulteriormente la rete dei carburanti, aprendo a nuove forme di contratto tra gestori e compagnie petrolifere. Grazie a Carmine Fotina del Sole 24 Ore per essere stato con noi e per averci aggiornato. A chi ne scrive male, ricordo che semplicemente è un collega del Sole 24 Ore che ci ha fatto la cronaca di un documento, quindi non è una persona che sta sostenendo quelle tesi, la necessità delle trivellazioni e così via. Ci sta riferendo a quello che è un documento di lavoro interno al Ministero dello Sviluppo Economico sulla strategia energetica. È tutto, grazie a Mauro De Corno in redazione, Pietro La Corte in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, Focus Economia torna lunedì con Sebastiano Barigioni. Radio 24, la passione si sente.